Questa strada è la mia casa che non ho. Il soffitto è un grande cielo splendido. Se potessi volerei da un angelo per giocare insieme a lui sopra la luna. Questa strada di baracche sbattute là, dove abita la nostra povertà. È la scuola dei bambini come me, che hanno per maestre fame e lacrime. Vivere sembra impossibile qui, come accendere nel mare un falò. È un mondo senza regole, è un brutto film che un giorno scorderò. Questa strada di tristezza e polvere.